e queste colline, dune africane, e questo tuo corpo che sorge dall'onda, sale che sgocciola sulle mie labbra. Mano accarezza queste mie spalle, piano si insinua fra i miei capelli, radi sottili come raggi di sole. Che sfiora questa mia mano, piano la prende e bacio si posa, e questo cantico dell'infinito culla l'amore nei nostri occhi, culla gli sguardi e le nostre parole, culla passione che ancora ci prende tra queste